負けラジオへ。Vivono simbolo dell'animo che dentro me adesso vive. Suonato nel 10 c'è già bella qua che respiro, non parlo proprio più. Canto solo canzoni del cuore mio libero, senza ragione ci sei tu. Garantito quest'anima, mamma, lo so che non è più sola mai. Ha trovato la parte di sé che cercava tanto tempo, sai. Cadere, cambiare, ho voglia di scappare da tutto questo male. Questa è solo una parte di me, questa carta di vita la si riconosce già. Ora scappo da tutti dal mondo che spiego se non ti ascolto mai. Si soffre, si sbatte, la calce ci passano, ora c'è il futuro. Pensere questa volta che io sta scherzando, ma basta, non parlo tanto. Mi date più, poco più, non lo posso più, a casa mia non c'è più un po' di che a morire. Grazie, cambiare, ho la voglia di scappare. Si sbaglia,